allora sono 30 secondi superate le 15, quindi possiamo dare il via alla trasmissione, alla conta trasmissione di questo mercoledì, quest'oggi mercoledì 19 di dicembre, sulle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Allora proviamo a fare il punto, come diciamo, sulla realtà di questi ultimi anni. Sono 20 anni con oggi, che 20 anni che esce scarcerando e 20 anni che si fa il presidio sotto Re Bibbia, e anche quest'anno andremo sotto Re Bibbia il 31 a partire dalle 10 di mattina fino a che tramonta il sole alle 15:16, e sono anche 20 anni di questa trasmissione. Prima aveva un altro nome, odiamo il carcere, liberiamoci dal carcere, poi la conta, comunque sempre trasmissioni contro il carcere. Allora vediamo un primo dato che barsa agli occhi: al 12 dicembre di quest'anno, quindi qualche giorno fa, il numero dei suicidi nelle carceri italiane è giunto a quota 63, un record purtroppo. Bisogna andare indietro oltre il 2011 per trovare, quindi al 2010-2009, che sono stati un po' i record di morti in carcere, di suicidi prevalentemente in carcere. 63 suicidi al 12 dicembre, quindi purtroppo aumenteranno ancora, speriamo di no, ma come, e per un totale di 140 morti, compresi suicidi oppure persone morte in genere per carenza di assistenza, per non assistenza abbastanza veloce. E quindi perché allora? Perché bisogna domandare, intanto perché parlando trattandosi di vita umana, visto che tutti fanno i grandi sproloqui quando c'è un morto o non morto, ovviamente, come sappiamo, ma l'abbiamo sempre saputo e continuiamo a verificarlo, non tutte le morti sono uguali. Se c'è i morti per terrorismo hanno un valore enorme, perché giustamente, perché i morti sul lavoro nemmeno ne parlo. Ricordo a tutti, ma credo che ve ne siete accorti, a meno che uno non ha proprio la testa fra le nuvole, nei giorni in cui anche giustamente i media, televisione, i social network, tutto i giornali eccetera parlavano diffusamente dell'attentato di Strasburgo, le persone uccise, prima 3, poi forse diventate 4 e poi 5, e quindi si parlava, analizzava eccetera. In quegli stessi giorni sono morte alcune persone sotto sul lavoro, semplicemente sul lavoro. Se, a volte veniva dedicato proprio un trafiletto, ma proprio due righe alla morte sul lavoro. Nessuno ha fatto l'identità di queste persone morte sul lavoro, nessuno ha raccontato la storia di questi uomini. Per esempio, uno di questi che aveva sui 30 anni, la mattina presto ha salutato la famiglia perché andava a lavorare, e il figlio piccolo diceva: papà, andiamo a fare le spese per Natale. L'ha detto: tranquillo, ci andiamo oggi pomeriggio, vado al lavoro, quando esco ti passo a prendere a scuola e andiamo insieme a fare le compere di Natale, compriamo i regaletti per i tuoi cugini eccetera eccetera. L'uomo non è più tornato a casa, il bambino sta ancora lì che aspetta, è morto sul lavoro. Ma non è una storia, questa non l'ha raccontata nessuno, non la racconterà nessuno, non si racconta. Quelli sono morti di serie B o addirittura C. I morti sul lavoro non sono morti di terrorismo, perché dice infatti non l'ha mica ucciso l'ISIS, no, l'ha ucciso il capitalismo. Quanti morti ha fatto l'ISIS, quanti morti ha fatto il capitalismo? Credo che il rapporto sia 1 milione a 1. A vantaggio del capitalismo, purtroppo. È chiaro, però si dice che il capitalismo è buono e l'ISIS è cattivo. Questo dipende dallo stomaco di ciascuno e ciascuna. Certo, se avete lo stomaco pieno di peli infetti, non lo so, fate qualcosa, perché non mi pare che state proprio bene. Però il problema è che invece di quegli altri hanno raccontato giustamente la storia, chi erano, che idee avevano. Di questi ragazzi sono stati 3 in quei giorni che sono morti sul lavoro. Nessuno ha chiesto se erano a favore dell'Europa oppure contro l'Europa, se erano contro le bandiere, i confini, ma non solo dell'Europa, di tutto il mondo, oppure pensavano altre cose. Nessuno, non ha importanza quello che pensano, le idee che avevano, i progetti di vita che avevano, le persone morte sul lavoro, sono morti e basta. Servono a valorizzare il capitale, a far fare incrementi, quindi profitti a chi investe capitale, a sviluppare il famoso PIL, quello che è diventato il nostro dio o demone di questa stupida civiltà che si dice laica, ma è forse più teocratica delle precedenti, perché ha i suoi idoli, no? C'è il PIL, che è l'idolo principale, il monarca assoluto dell'universo, poi c'è lo spread, anche lui fa parte della Trinità, no? E poi c'è il debito. Questa è la Trinità che comanda, più o meno come l'altra Trinità nei periodi degli stati teocratici, e quindi non si sfugge lì, mentre invece quindi è il morto per sviluppare questi tre elementi. Morire sul lavoro è un dovere, quasi un obbligo, ci mancherebbe altro, quello è l'obiettivo principale, è come morire per combattere gli infedeli, la stessa strategia che ha l'ISIS. Come vedete, grandi differenze non ci sono, anzi è l'unica cosa che l'ISIS ancora deve recuperare, perché sta molto indietro rispetto a morti fatti, diciamo le società teocratiche prima, quelle capitalistiche poi, hanno quantità di morti molto molto superiori a tutti i massacri spaventosi. Continua a fare. Questo però per dire la stampa, giornalisti, giornaliste, che vi pensate, perché poi fate e giustamente la lacrimuccia sul ragazzo, la ragazza, l'uomo, la bambina, la signora morte dopo, sotto l'attentato, giustamente ci raccontate la loro storia, giusto, non va lasciata abbandonata, non è un numero una persona morta in un attentato. Ma perché secondo voi è un numero una persona morta sotto il lavoro? E allora 15.08, diciamo, però comunque noi parliamo del carcere. Ci sono stati 63 suicidi nel 2018 fino al 12 dicembre. Perché così tanti? Perché ci si suicida in carcere? Allora, le tesi che vanno di moda tanto nei convegni, nei dibattiti, sulla stampa, in televisione, eccetera, ci dicono che delle diciamo autorevoli associazioni di psichiatri dicono perché le persone in carcere sono malate di mente, ma non che vengano messe in carcere perché siano malate di mente, entrano sane, o perlomeno è chiaro, altrimenti non verrebbero condannate, no? Pare che il giudice e tutta la corte, tutti quelli che poi affibbiano una condanna a una persona, verificano che sta a posto di mente, altrimenti non si può applicare la condanna a una persona non sana di mente. Quindi entrano sane di mente e dopo un po' pare che, ci dicono gli psichiatri, sono malati di mente. Ci dicono che la percentuale è altissima, quasi tutti, e difatti vengono diffusi psicofarmaci a go-go nelle carceri, come fossero che so, mentine allo zucchero. È più facile trovare, ma questo già da tempo, da tempi parecchi, è più facile trovare un psicofarmaco che un'aspirina oppure un antidolorifico, perché in carcere i dolori vengono anche quelli fisici oltre quelli interni. E dunque loro ci dicono così. A me pare un po' una stupidaggine, anzi è una stupidaggine, perché se fosse vero che il carcere rende le persone disabili mentalmente, cioè fa diventare le persone sane e pazze, vorrebbe dire che è molto peggio di un lager nazista. Quindi praticamente tutti i ministri degli interni, i capi di governo, gli altri, quelli della giustizia eccetera, da 20 anni a questa parte dovrebbero essere processati per crimini contro l'umanità, al pari del processo di Norimberga. Perché se Priebke e i vari nazisti che poiché gestivano i campi di sterminio sono stati condannati, perché non condannare questi? Se la tesi che dicono gli illustri psichiatri è che la struttura carcere gestita dallo Stato italiano e dai governi fa diventare matti, perché non condannare anche questi? Probabilmente quindi non è così. Io ritengo che invece il suicidio è un atto molto razionale della persona carcerata, avviene non come un atto disperato così, anche perché non hai strumenti per buttarti per esempio dalla finestra, ci sono le sbarre, non hai la possibilità di buttarti dall'androne delle scali perché anche lì ci sono le reti, quindi non puoi fare un atto così disperato, improvviso, prodotto da un raptus. Questo non può fare, lo può fare la persona libera, la persona incarcerata non lo può fare. La persona incarcerata può riflettere profondamente a ciò che gli è successo, a ciò che sta vivendo o non vivendo in carcere. Non sta vivendo in carcere, può accettare questa non vita? Dipende, a volte sì, a volte no. Ci lotta contro, perché per vivere senza vita bisogna lottare continuamente. Se smetti di lottare anche per 10 minuti, un quarto d'ora, ti prende la depressione. Depressione che dice: vabbè, io devo uscire comunque, poiché l'evasione è difficile farla e comunque presuppone un lungo lavoro e anche una collaborazione interna ed esterna. Attenzione al secondo termine, esterna. È chiaro che c'è solo un modo per evadere immediatamente, quello di preparare in 2-3 giorni una corda e mettere in pratica un suicidio. Probabilmente questo quindi è un fatto molto elaborato, lo attestano le lunghe lettere lasciate. Ogni suicida in genere lascia delle lunghe lettere, a volte ai familiari, a volte se ce l'ha con l'amministrazione carceraria o col giudice che l'ha condannato, a loro, oppure a volte così a un figlio, una compagna eccetera. Quindi per scrivere la lettera ci vuole tempo, cioè sono attività, scelte lungamente elaborate. E ne dà conto anche il numero dei tentati suicidi. Se 63 sono i suicidi realizzati, sono circa 200 quelli tentati. E che non arrivino a fine quelli tentati è proprio perché il carcere è molto affollato. In genere i detenuti stanno in cella con altri, quindi non è facile sottrarsi all'osservazione, all'attenzione, alla curiosità dell'altra persona. Quando ti vedono fare una cosa strana dicono: che stai facendo? È ovvio, stai lì a portata a pochi metri, e quindi spesso sono i compagni di cella che impediscono che il suicidio vada a fine. A volte sono anche le guardie che passano continuamente, perché le persone sono molto controllate, che impediscono il suicidio. Però appunto, come vedete, i tentativi sono tantissimi. In situazioni diverse, mettiamo il caso ipotetico che non avverrà mai, che si stesse in un carcere in cui si stesse tutti in una cella singola, ben separate, insonorizzate una dall'altra, è chiaro che il numero dei suicidi si moltiplicherebbe per 3, 4, 5, quindi è una situazione spaventosa. Ma diciamo, perché una persona appunto si suicida? Il primo elemento è quello: per sottrarsi all'angheria della galera. Non è facile accettare appunto un'angheria, una sofferenza continua, ininterrotta, per tutto l'arco della giornata e delle giornate che seguono, e quindi uno può mettere fine solo in quel modo lì. C'è poi l'assenza di comunicazione. Chi sta dentro dice: se urlo chi mi ascolta? Nessuno. Se dico delle cose, chi mi ascolta? Nessuno. Sì, i compagni di cella ti ascoltano, ma sono disperati come te, che stanno lì anche loro, quindi casomai riproducono lui il loro urlo, ciascuno ha un urlo, chi ce l'ha col giudice che l'ha condannato, chi ce l'ha contro che ne so, le guardie che l'hanno arrestato, quello che ha fatto la spiata, cioè, è chiaro che i motivi per cui si va in carcere sono tanti, e quindi tanti possono essere le persone contro cui uno urla la propria disperazione, però comunque anche se urlano tutte e cinque, coloro che abitano in una cella non è che li ascolta nessuno, quindi la mancanza di ascolto è fondamentale, nessuno ascolta le parole dei carcerati, perché per definizione le persone carcerate non hanno voce, non devono aver voce. Considerate che il carcere nasce, e poi appunto diciamo di questi 280 quasi 300 anni la vita del carcere moderno, esattamente come adesso il carcere nasce circa 270-280 anni fa, esattamente come adesso, prima c'erano altre forme di carcerazione, quindi sono circa 500 anni che c'è il carcere, ma erano un po' diverse da queste. Quello del carcere come adesso, cioè isolamento dall'esterno, il carcere come luogo avulso, diverso, emarginato dal resto della società, che non abbia collegamento tra interno e esterno, ecco, il carcere è così, il carcere è come luogo a sé stante, a parte, come microcosmo, come situazione in cui le persone detenute sono totalmente e costantemente controllate. Ecco, questo carcere qui nasce appunto circa 300 anni fa, e oggi appunto compiendo questi 300 anni noi pensiamo che sia il caso di dire la parola fine. Ma continuiamo il discorso sul suicidio. Il problema del suicidio quindi arriva da queste cose. Ci sono però delle dinamiche che non dipendono dalle persone detenute che possono incrementare il suicidio. Cioè questa sorta di depressione totale che prende. Quando avviene? Avviene quando, perché è successo già in altri periodi simili a questo, ossia quando dall'esterno forze politiche che vogliono farsi grandi e importanti, altri che vogliono così raccogliere un po' di consenso tra l'area che gravita intorno al carcere, e insomma per mille altre ragioni alcuni promettono delle modifiche alla situazione carceraria, modifiche che ovviamente ruotano tutte intorno al fatto che si esce prima dal carcere. Per esempio, per parlare appunto di questo periodo, la riforma Orlando, in cui il ministro della giustizia precedente a questo governo, nel governo di Renzi e poi di Gentiloni, il ministro della giustizia era Orlando, che ha lavorato ben 4 anni a far produrre una riforma che aveva tanti punti, ma quelli centrali che interessavano i più carcerati era il passaggio più veloce dal carcere alle misure alternative, non introducendo nuove leggi, ma facendo in modo che le leggi del passaggio alle misure alternative, legge del 2012, fosse più rapida, avvenisse più celermente, non si incastrasse nel meccanismo farraginoso della burocrazia carceraria e della magistratura di sorveglianza. E quindi quella cosa gli ha fatto sperare molti detenuti, alcuni come i radicali, non voglio criticare loro dicevano sì, bisogna sostenere questa riforma perché permette appunto che molte persone vadano ancora, molte persone carcerate vadano in misura alternativa, bla bla bla, e quindi facciamo. E indissero uno sciopero della fame da parte dei detenuti, e parecchi l'hanno fatto, parecchie migliaia, ma anche da parte di familiari, di parlamentari, persone esterne, per sostenere questa. Quindi molte persone interne al carcere ci avevano quasi creduto di questa piccola riforma, che però avrebbe permesso a molti, parliamo circa 30.000 persone, che avrebbero diritto a quel passaggio alle misure alternative, perché secondo la legge hanno maturato queste situazioni, la situazione per passare alla misura alternativa, ma non avviene per tutto il meccanismo burocratico e bla bla bla, che sapete benissimo. E questi sarebbero andati sì, fuori, sempre meglio che in carcere, anche col controllo esterno, arresti domiciliari oppure affidamenti in prove ai servizi sociali, e comunque sarebbero stati fuori dal carcere a riprendere un po' gradualmente la propria vita. C'erano creduto, poi con il nuovo governo che intanto anche se il ministro di quel governo aveva fatto questa riforma, però poi non hanno avuto, quel governo lì non ha avuto il coraggio di portarla fino in fondo, avrebbe avuto il tempo, il governo Gentiloni aveva il tempo, ha avuto un anno quasi di tempo per rendere attuabili e complessivi i decreti, e soprattutto questo è il decreto legge che faceva questa diciamo accelerava il passaggio alle misure alternative. Non hanno avuto quel coraggio perché si avvicinavano le elezioni che si sono tenute a marzo di quest'anno e pensavano che avrebbero perso le elezioni. Attenzione a questo punto perché ci torneremo, è importante per tutto il ragionamento che facciamo. Se si dice facciamo uscire più persone dal carcere, si perdono voti, perché c'è questo un po' rimbambimento nella popolazione italiana e non è che non siamo quel tranchant stupido di dire ah la colpa è dei potenti, i poteri forti. Questa parola non vuol dire niente, i poteri forti non esistono, il potere è potere, forte non esiste, il potere debole. Eppure si usano queste parole, no? Ci stanno i poteri forti e ci stanno pure i poteri deboli. Se uno è debole non è un potere, no? Vabbè, ma questo per dire le cretinate che girano, ormai siamo in preda a una, come dire, una corbelleria totale, vabbè. Ma è, quindi non è così, c'è anche una responsabilità della popolazione italiana, totalmente, lo si vede come si esprime, lo si vede appunto in questo fatto qui. E allora si avvicinano le elezioni, i sondaggi dicevano che se dicevi sia la riforma del carcere perdevi i voti, e allora hanno bloccato tutto. Quindi il precedente governo ha bloccato la riforma Orlando, questo nuovo governo giallo-verde l'ha buttata nel cestino. Che cosa è successo? Basta vedere i dati dei mesi. Gennaio un suicidio, febbraio nessun suicidio, a marzo uno o due suicidi, quindi ancora pochi. E se si pensava, dice, beh, questa volta andiamo sotto i minimi stabiliti, per fortuna. Scusate. E invece da marzo, da aprile sono cominciati a salire fino ad arrivare a un record di oggi, 63 suicidi a dicembre. Ebbene, perché appunto hanno visto che quella speranza, minima speranza che avevano, è stata ghigliottinata, uccisa, massacrata, e quindi è rimasta la depressione, da cui la riflessione, il ragionamento e qual molti hanno deciso per il suicidio. Questo è il motivo, tutto qua, è un fatto politico il suicidio delle persone detenute, è un fatto altamente politico, anzi è l'essenza della politica. Chi non capisce queste cose, purtroppo mi dispiace, ma non ha capacità di comprendere il rapporto tra strutture di potere istituzionali e persone dipendenti da questi. Appunto, la persona carcerata dipende dalle strutture istituzionali, dalle istituzioni, dai meccanismi istituzionali, e quindi c'ha un rapporto di dipendenza. Quando avvengono questi fatti che descrivevo prima, cioè la speranza prima sottolineata, poi buttata nel fosso, nel cestino, crolla quella speranza in depressione, e da cui il suicidio. Questo è il motivo. Oltre questi 63 sono in totale sono 140, quindi gli altri 80 morti sono morti per mancanza di assistenza, e questo lo sappiamo benissimo, perché in carcere l'assistenza per i detenuti non funziona. Ma insomma, questo è il punto centrale, che già ci dice che il carcere è arrivato a un punto di non ritorno. Quello che dicevano la teoria, l'analisi del fatto che il carcere non è riformabile, è un'analisi, una teoria, diciamo, più che altro una riflessione analitica molto documentata, fatta circa 100 anni fa, i primi del Novecento, da studiosi che avevano analizzato, visto il sorgere del carcere, il suo andamento, eccetera, dicevano il carcere non è riformabile. Praticamente o rimane questo supplizio, lo chiamavano strumento del supplizio dell'umanità, oppure ce lo togliamo di torno. Da cui cominciarono a nascere le prime riflessioni abolizioniste. Si riprese questo termine, quelli che volevano abolire il carcere, cioè farla finita con il carcere, ripresero il termine abolizionismo, che derivava dalla battaglia, dal movimento per l'abolizione della schiavitù, quello che è durato 200-300 anni, e poi alla fine è riuscita ad abolire la schiavitù totale, introducendo la schiavitù del lavoro salariato, che è una schiavitù parziale, contrattuale, cioè praticamente contrattata tra padrone e schiavo. lo schiavo salariale è questo: il lavoratore va a lavorare e può contrattare la sua organizzazione, ma è la stessa cosa. L'organizzazione patronale e l'organizzazione del lavoratore contrattano le condizioni di quella schiavitù per certe ore, 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, quelle che sono, 40 ore a settimana, mossa è di nuovo riaumentato, 48, comunque, però quindi è una schiavitù contrattata e quindi parziale. La schiavitù precedente invece era totale, addirittura il padrone aveva diritto di vita o di morte sullo schiavo. Oggi muoiono sul lavoro lo stesso, ma non per una esplicita volontà del padrone, per inadempienze, questa però è un passaggio comunque dovuto a 300 anni di lotte. È sempre schiavitù, attenzione, però è una diversa forma di schiavitù, la contro cui si può lottare volendo, se si vuol lottare. Il problema è quello: contro la schiavitù si poteva lottare solo in un modo, la fuga, no? Per la, che non, 9 volte su 10 finiva nella morte dello schiavo, perché veniva braccato da tutti i possidenti, con i cani, i cavalli eccetera, ucciso. Oppure appunto si muniva di un'arma e se la giocava così. La schiavitù del lavoro salariato è possibile, sempre ovviamente con uno scontro violento, ma non esiste scontro non violento, ci dispiace per i non violenti, ma credo che siano estinti, perché in effetti è ridicolo oggi parlare di non violenza quando muoiono 2000 ragazzini al giorno per malnutrizione. Quindi che vuol dire non violenta? Non violenza fa ridere, no? Non c'è, oggi non ci sono i non violenti, diciamo. Noi puntiamo a raggiungere una società non violenta, chiaramente, ma bisogna trasformare il 98% delle cose che esistono adesso, più o meno, no? Forse qualcosa di più del 98%, no? Tipo primo il capitalismo, poi la proprietà privata, poi l'individualismo, tutte queste cose qua. E va bene, questo è uno dei punti del quadro di situazione, ma andiamo più a fondo, o meglio, andiamo più a fondo per vedere più ampiamente il quadro della situazione. We'll be right back. Allora riprendiamo 15:30. Qual è il programma dell'attuale governo, appunto, a proposito delle carceri? Ha buttato nel cestino quello precedente, ha fatto un decreto in cui sono solo parole generiche, sì, bisogna migliorare la condizione di chi sta dentro, rilanciare la rieducazione e l'inserimento. Poi concretamente che cosa dice? Vediamo. Allora, il ministro Bonafede dice più fondi per l'edilizia carceraria, per costruire nuove carceri, e 1300 nuovi agenti secondini in più. Perché dice queste due cose? No, più fondi per aumentare l'edilizia penitenziaria e più assunzioni, 1300 nuovi agenti. Evidentemente hanno intenzione di aumentare il numero delle persone in carcere, infatti lo dice. Rilanceremo. Abbiamo sbloccato le risorse per il piano carcere, che erano state bloccate anni fa. Ricordate il piano carcere quando c'era il governo Berlusconi, che tra l'altro, diciamo, dal punto di vista dell'attività industriale oltre che quella politica, è legato a molte aziende che queste specializzate che costruiscono i penitenziari, le carceri, e quindi avevano lanciato questo piano carcere. Avevano fatto crescere la popolazione carcerata, era arrivata a un livello di sovraffollamento spaventoso. Allora, adesso, sotto questa emergenza, fecero approvare al Parlamento il piano carceri, un piano che stanziava 8 milioni per costruire nuovi penitenziari. Cioè, così il sovraffollamento si riduce, perché rimettiamo questi detenuti che dovranno crescere sempre di più in nuovi carceri. Una volta disse proprio Berlusconi, mi ricordo, dice d'altronde, per un paese come l'Italia il numero fisiologico di persone detenute è intorno ai 100.000, quindi stava allora a 60.000 quanto stanno adesso. Dice, quindi troppo dovrà crescere, allora costruiamo nuove carceri, così metteremo gente in carcere, staranno tranquilli, belli, larghi e riposati. Ecco, poi venne bloccato questo, perché proprio in quei periodi venne fuori questa crisi di cui si parla, 2007, 2008, no? Il governo Berlusconi si dimise, vennero i governi tecnici, tutta questa roba qua. Adesso dice Bonafede, abbiamo sbloccato quel blocco delle risorse, quindi circa 70 milioni di euro. Ora, 70 milioni di euro poi diventeranno 100, 150, anche di più, per costruire nuove carceri. Secondo voi, ma lo potete domandare pure a una ragazzina o un ragazzino di 10 anni, tra tutte le cose che servono in questo paese, che sono le città, Roma è piena di buche, la raccolta differenziata che non funziona, e mille altre cose, le case che mancano, la gente dorme sotto i ponti, è necessario spendere 70 milioni di euro per costruire nuove carceri invece che nuove case, per esempio? Vabbè, ognuno tragga le proprie conclusioni. Poi dice lo stesso Bonafede, e qui non so se è un problema che l'ha riportato male l'agenzia oppure, diciamo, i neuroni si sono un po' impicciati. Lui dice, questo è il piano che dobbiamo fare, perché bisogna appunto sbloccare queste risorse, aumentare il numero delle carceri, così si finisce questo vergognoso sovraffollamento. Non che dice bisogna diminuire la popolazione carcerata, siccome vogliamo farla crescere mettendo sempre più gente in galera, anche se diminuiscono i reati, ma questo non l'ha detto perché o non lo sa o non gli interessa. Il problema non è il rapporto tra i reati e le persone che fanno i reati, il problema è che mettere gente in carcere dà l'idea di un governo che si occupa della sicurezza dei cittadini. Questo era l'elemento che dicevamo, no? Il carcere come droga ideologica, attenzione, qui ci torneremo, perché è soltanto una droga ideologica, molto peggiore dell'eroina, chiaramente, no? È una droga ideologica, perché non ha niente di materiale più. Cioè, sul piano materiale, la verifica ai fatti, del percorso di 300 anni del carcere, dice che il carcere non ha rispettato le funzioni che si erano attribuite al carcere, cioè non ha raggiunto lo scopo che si era prefissato, non funziona per quelle cose che si sono: reinserimento, recupero, rieducazione. Non combatte il crimine, addirittura lo esalta, cioè non è parte della soluzione, è parte del problema. Quindi, ma il 99,99%, tranne qualche cialtrone che scrive perché appunto il padrone gli ha detto di dire bugie, ma tutte le analisi serie fatte sul carcere dicono che il carcere produce criminalità. Lo dicono anche loro, solo che lo dicono la mattina, la sera si dimenticano e quindi cambiano idea. Ma continuiamo con Bonafede. Lui dice purtroppo l'indice di recidiva cioè le persone che uscire dal carcere fanno quelle per cui le entrate, è intorno, è stimato intorno al 70%. Quindi è un sostanziale fallimento dei tentativi di reinserire il condannato nel tessuto sociale e quindi lo teniamo in carcere. Questa è la ragione, non che dice forse il carcere non è lo strumento per reinserire, dice no, quello è un dato di fatto, l'ha detto qualcuno, importante, indiscutibile, quindi il problema è che se non si reinserisce costruiamo nuove carceri e li teniamo in carcere. E siamo arrivati appunto alla soglia dei 60.000, e però appunto partendo da questi punti oggi ci possiamo fare la domanda e poi piano piano daremo la risposta: a cosa serve oggi il carcere? You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Allora, 15:37, bisogna interrompere questo meraviglioso pezzo dei Doors, ma tanto poi lo riprenderemo. Dunque, lo dicono loro, lo dicono loro che il carcere fa male, è il contrario di quelli che erano i suoi obiettivi, doveva reinserire e rieducare, riportare nella società quelli che avevano violato la legge, no? Invece... A proposito sempre della, prendiamo l'ultimo, ma tutti quanti gli attentati terroristici fatti in Europa e anche nelle altre, in Europa, perché sono quelli più indagati dalla stampa, sono tutte persone, gli autori di questi, quelli presi poi uccisi in genere, sono il, più qui i giornali dicono, il killer di Strasburgo era solo, non faceva parte di nessuna rete, lo dice il ministero dell'interno francese. Lo avevano già processato e condannato più volte per piccoli furti e piccolo spaccio, questi erano i suoi gravissimi reati. Quindi era un criminale, uno che fa piccoli furti e piccolo spaccio? No, era un povero sbandato. L'hanno arrestato e siccome la giustizia non perdona, deve essere dura, la certezza della pena, questi imbecilli che usano questa parola di cui non sanno il significato, ma rimangono imbecilli e così a loro piace, quindi li lasciamo lì, e l'hanno messo in galera. Chiaramente si era un po' arrabbiato perché insomma uno che fa piccoli furti l'hanno sbattuto in un carcere anche abbastanza pesante e lì si è radicalizzato, ci dice, ed è stato contattato da alcuni estremisti e invece di essere rieducato è stato educato all'estremismo radicale e quindi a fare il terrorismo. Siccome aveva condanne piccole, dopo un po' è uscito col furto, non è che può dare l'ergastolo a tutti coloro che hanno il furto, anche se molte persone questo vorrebbero, però non è possibile, anche perché si estingue l'umanità in pochi minuti, in poco tempo, in poche ore e quindi è uscito, quindi è entrato in carcere come piccoli furti e piccolissimo spaccio, addirittura era, pare che nel processo che ha subito era un piccolo consumatore, e che può darsi a qualche amico vendeva qualche cosa, quindi cose piccole, per cui in un paese civile non c'è la galera, no? Però in Francia, che pure si presume, loro pensano, loro, ma nessun altro, solo loro, quei quattro deficienti, poi i fascisti francesi, che sono purtroppo la gran parte, ma perché è sempre nato lì il fascismo, quindi non è che è nato in Germania, è nato in Francia, ricordatevi bene, ed anche il razzismo in Francia e in Inghilterra. Questo tanto per mettere i puntini su lei, un po' di storia che male non fa a ripassarla. E allora è uscito come estremista terrorista e ha fatto quello che ha fatto. Ora, e vabbè, quello l'hanno ammazzato e vabbè, ci sta, funzionano così queste società, non è che si può mettere a piangere. Il problema è che non sarebbe il caso pure di prendere per le orecchie e processare, o comunque processare non dal punto di vista giudiziario, ma dal punto di vista sociale, dire a quelli che l'hanno buttato in carcere: ma siete così cretini? Mi pare che un ragazzo che ruba qualche piccolo oggetto ve lo dovete mettere in galera, così poi ne esce estremista, radicalizzato, terrorista. Non siete cretini? E quindi meglio che vi leviamo, andate a raccogliere la Mondessa per le vie di Parigi, piuttosto che fare invece appunto i giudici, i grandi soloni della giustizia. Eh beh sì, perché i responsabili sono quelli, ma nessuno ha detto no, non c'è pericolo, i giornalisti si devono tenere il loro salario, capisco che tutti hanno famiglia e devono fare le feste di Natale tranquilli, e quindi si devono mantenere lo stipendio al sicuro, quindi non le diranno mai, e per evitare di dirle nemmeno le pensano, quindi si sono tagliati un po' di neuroni e così non manco pensano. Questa cosa non la dice nessuno, però ogni volta che, se voi andate a sfogliare i giornali, questo di Strasburgo l'hanno detto loro, era stato arrestato per piccoli furti e perché possesso di piccole dosi di droga per uso personale, è stato messo in carcere e ne è uscito terrorista. Ma anche tutti gli altri erano così, se voi leggete tutti gli altri attentati avvenuti in Europa, il dato è quello. Quindi si mette le persone, quindi il fatto che il carcere produce il crimine, non solleva la società dal crimine, ma addirittura accentua il crimine, è un dato di fatto. Lo dicevano gli analisti, quelli che hanno teorizzato queste cose. Oggi la cronaca ci dice questo fatto qui. Quindi soltanto le persone che non vogliono ragionare dicono che il carcere serve. Il carcere quindi non serve a niente, non ha abbandonato completamente i suoi originari compiti, che erano rieducare e reinserire. Non riesce a essere nemmeno deterrente, perché non lo è, rispetto a chi vuole fare appunto violare la legge. Peggiora le persone dentro, perché in genere, soprattutto i giovanissimi, entrano per così piccoli furtarelli, ne escono grandi criminali. La grande malavita organizzata lo sanno pure i sassi, che in carcere recluta le persone, ovviamente, no? Perché sono disperati, gli offre uno sbocco alla vita, eccetera. E allora, se non serve a niente il carcere, cioè non serve ai compiti che funzionano, se è solo produttore di crimine, perché ce lo teniamo? Questa è la domanda. Cioè, la domanda è semplice: la società moderna, questa così, che secondo i soloni ci dicono che è improntata alla scienza e alla tecnologia, in parte è vero, in parte no, comunque mettiamo che sia così, è chiaro che quando si fa una struttura, un'opera d'arte che non mantiene le promesse, che non, ecco, un ponte che non regge il traffico sopra ma crolla, è ovvio che è sbagliato, e quel tipo di ponte non si fa più, e infatti si fa in un altro modo, ecco, però i ponti che crollano subito, non dopo 50 anni, questo per capirci. Allora, se uno si fa una macchina che non funziona, quel progetto si abbandona e se ne fa un altro. Così funziona la modernità, è questa, ma anche la prima probabilmente era così, anzi sicuramente era così, però non andava avanti, almeno su questo piano tecnico, l'umanità. E invece il carcere non funziona, fa il contrario di quello che aveva promesso, cioè non è che deprime e rallenta il crimine, ma lo esalta, perché la gente in carcere si lega alle strutture criminali, entra come ladro, il piccolo ladro, esce come criminale terrorista addirittura, e recluta, quindi peggiora la situazione. Non è più il carcere, più carcere non è più sicurezza, più carcere significano più reati, più carcere significano più crimini, più carcere significano più insicurezza. Però il carcere rimane, perché? E questa domanda bisogna, se uno non risponde a questa domanda non deve andare a dormire stasera, perché se no vuol dire che non esiste, non è vivo, non è morto. Allora, perché? Cioè, perché non è quello che ci hanno raccontato, non c'entra niente, ma nemmeno alle origini ci credevano. Il problema è che il carcere serve a ben un'altra cosa, è una sorta di droga, è una sorta di droga, perché che dà risposte al malessere che è diffusissimo tra le persone. Perché il malessere è diffuso, anche questo lo dicono tutti ormai, no? Difatti c'è lo sbotto appunto nelle sostanze stupefacenti o nel gioco. Il gioco ormai hanno detto che è una malattia, ma che vuol dire una malattia? È sicuramente il gioco d'azzardo, no? Tutte quelle macchinette, quelle cose, i mille altri giochi d'azzardo che stanno su internet. Lo stesso internet, i social network, questa parossistica voglia di parlare con un nessuno, perché di là c'è nessuno, perché non sai chi è, non l'hai guardato in faccia, non sai il colore degli occhi, non sai come si muove, che cosa fa nella vita, se fa il torturatore oppure fa il miserabile, cioè non sai niente. E quindi questa finzione di socialità attraverso i social network è un'altra droga, è una grossa droga, e così via. Tutte queste droghe, queste paure, queste insoddisfazioni, queste sofferenze vengono lenite, o comunque si prova a lenirle con una droga che è quella della sicurezza. Si dice: allora, voi state male, soffrite perché avete paura dell'insicurezza che domina le città, per cui noi vi diamo sicurezza. Come ve la diamo? Molti hanno paura di perdere il lavoro e lo perdono. Non nel senso stabilizzare il lavoro, quello no, non è possibile, perché il capitale richiede continui licenziamenti, riassunzioni, fa come gli pare, o la trimestralità o il precariato, che va avanti così, oppure si sposta da un'altra parte del mondo, quell'azienda licenzia tutti, cioè quello non si può toccare, la libertà di movimento del capitale è intoccabile, quella delle persone invece è molto toccabile, altro che e quindi vengono presi e sbattuti quella a tribolare per sapere se il mese prossimo porteranno a casa un salario oppure no. E quindi è profonda insicurezza e profonda sofferenza. Ma a questa insicurezza e sofferenza si risponde: io ti do più polizia. Ma il problema non è che il posto di lavoro te lo fanno perdere i ladri, te lo fa perdere il padrone. Ma comunque, vabbè, però è ovvio che le persone, a forza del martellamento, l'essere umano è un essere ammaestrabile, questo lo dimostrano tante cose belle, o per esempio lo sport o tutte le attività sportive, quelle più difficili, avete visto come l'esercizio continuo fa fare cose che una persona normale non ci riuscirebbe mai, e poi anche tante cose, poi anche i movimenti a sostegno delle dittature che facevano delle cose spaventose, e quindi è altamente ammaestrabile, forse più di altri animali, e questi oggi siamo stati addestrati a riconoscere per insicurezza più polizia, più forze dell'ordine, più repressione, più carcere. Questo è il discorso. Non è che uno dice: guardate che quello, la gente ha paura di perdere il lavoro, quindi facciamo delle misure per stabilizzare il posto di lavoro, o se non possiamo stabilizzare il lavoro, stabilizziamo il reddito. L'hanno fatto già alcuni paesi, per esempio la Svezia ne faceva, che tu avevi un lavoro, se quell'azienda chiudeva o licenziava, tu mantenevi quel lavoro a carico di una struttura pubblica in attesa di trovare un altro, ma non perdevi manco un soldo. E questo quindi è una droga ideologica. Allora, arrivati a questo punto, il carcere non serve a niente, concretamente ha fallito tutto quello che poteva fallire, fa solo del male, incrementa il crimine, incrementa la violenza nella realtà, no? Produce anche il terrorismo, perché l'abbiamo visto, è stato il carcere che ha prodotto il 90% dei terroristi che hanno insanguinato l'Europa, non questi che fanno i botti, gli attentati eccetera, non ha nessun aspetto positivo, quindi è soltanto una droga ideologica. per lenire appunto le tante paure che invece questa società, che non è a misura di essere umano, produce. E allora, stante così le cose, è altra domanda: non è per caso il momento di mettere affrontare una critica pesante al sistema carcere nel suo complesso, repressione carcere nel suo complesso? Considerate che la repressione, che si sviluppa attraverso le direttive del codice penale, al suo vertice al carcere, appunto, per il codice penale, perché produce pena, una condanna alla pena che il 99% è il carcere. Quindi al vertice della repressione c'è il carcere. Quindi quando si dice no al carcere, si dice no a tante altre cose: al sistema, al codice penale, al sistema della legalità imposta, al sistema dell'assenza di libertà, al sistema della proprietà privata, al sistema dell'individualismo. Si mette in crisi tutti i baluardi di questa. Tant'è vero che al sorge della seconda fase dell'industrializzazione, appunto, nasce il carcere come l'altro pilastro in cui si reggevano le nuove società capitalistiche, appunto, no? Fabbrica e carcere, i due pilastri della modernità capitalistica sono questi due. Tutti gli altri, uno può dire: ma io non sto né in carcere né sto in fabbrica, ma stai sempre dentro questo sistema, non è un problema. Un ufficio tecnico non fa il lavoro dell'operaio in fabbrica, ma è al servizio della fabbrica, così come i magistrati dice: non faccio il secondino, ma stai al servizio del sistema carcere. Quindi è un po' più complessa, però non è difficile arrivarci. E quindi, se è questa la situazione, è giunto il momento di porre il problema concretamente di abolire le prigioni. Altrimenti rischiamo quello che si sta facendo poi, perché sono tante le persone, i gruppi, le associazioni che criticano alcuni dei vari aspetti del carcere, questi, quelli più fastidiosi, scellerati, che ne so, il vitto fa schifo, la sbobba, no? E allora facciamo una battaglia per migliorare il vitto, va benissimo. Le ore d'aria sono poche, allora facciamo una battaglia per aumentare le ore d'aria, va benissimo. Le ore di colloquio sono poche, fatte in ambienti orribili, va benissimo, miglioriamo anche quello. Cioè, ogni cosa è migliore, perché va tutto male, quindi chiaramente lo spazio, appunto, il sovraffollamento. Ma perché, visto che così rincorriamo il sistema carcere che produce tutte queste indegnità e quindi ti chiama a rientrare su ciascuna di queste per contrastare il peggioramento oppure cercare un piccolo miglioramento, ma questa è la realtà, tanto vale affrontare di petto il problema e dire: andiamo alla radice del problema e iniziamo un movimento per l'abolizione delle galere, non per rincorrere questa cosa qui. Ma allora c'è il rapporto carcere misure alternative, allora la riforma Orlando diceva più misure alternative meno carcere, questi dicono più carcere meno misure alternative, ho capito. Cioè, non possiamo sta a giocare con loro, loro giocano con la nostra vita, noi non possiamo andare appresso a loro. È rischiosissimo andare appresso alle nevrosi dei potenti, dei poteri che sono sempre forti, non esistono i poteri forti come se esistessero anche i poteri deboli. Comunque, poteri forti è una stupidaggine, si dice poteri e basta, è inutile mettere aggettivi, no? Se no ci stanno i poteri cattivi e i poteri buoni. Per favore, lasciamo stare, qui siamo contro i poteri, quindi non veniteci a rompe l'anima con queste imbecillità totali, perché c'è un limite anche alla stupidità, no? Non facciamo come Trump, che dice che appunto la terra è quadrata e tutti che bello la terra è quadrata, perché così dice, sta dicendo delle castronerie che non hanno limiti. E va bene, però allora poniamoci questo problema e cominciamo a affermare alcune cose. Allora, le paure e le sofferenze che la gente prova vanno viste alla loro radice, una per una, e viste concretamente. Quindi non la gente non ha sicurezze, quindi più polizia e più carcere. No, la gente non ha sicurezze, quindi capiamo quali sono le insicurezze che ha e battiamoci su quelle. Ha sicurezza di perdere il lavoro? Bene, soprattutto di perdere il reddito. Allora battiamoci perché il reddito rimanga. È stato possibile, è stato fatto in altre società, nemmeno rivoluzionarie, addirittura in queste, perché non era una società rivoluzionaria quella svedese o quella olandese di qualche decennio fa, però avevano questa clausola che la persona che perdeva il lavoro per licenziamento o spostamento o chiusura dell'azienda manteneva il proprio reddito uguale a prima, in attesa di trovare un altro lavoro. Quindi quella cosa si può fare, è stata fatta, per cui ecco, al limite quella cosa leverebbe l'insicurezza del lavoro. Oppure la paura di che le, appunto, non riesci a pagare il mutuo perché la banca ha messo i tassi troppo alti e tu non c'hai soldi, ecco, e questa cosa si può benissimo bloccare, intanto perché mettendo un controllo sulle banche e così via, tutte queste cose, ma soprattutto un altro momento, poi quindi si può cominciare a vedere la società che ha bisogno del carcere è una società malata, e qui lo vediamo, la nostra. Quando sentiamo gridare più carcere, e considerate che la campagna elettorale del marzo scorso, l'ultima, vedrete che la prossima sarà uguale, è stata fatta all'insegna di questo. Certezza della pena, buttiamo tutti in galera, gli immigrati ci rubano, ci ammassano, ci facciano, e quindi tutta questa ricerca del nemico. La ricerca del nemico sta dentro il governo della paura, perché si induce una paura alle persone a cui si dà una risposta che non è quella naturale, ma quella fuorviante. Se una società non sa regolare le relazioni, i conflitti interni tra le persone, ma deve ricorrere al terrore della punizione e della carcerazione, è una società ancora più malata, non è legittima, e così via. Possiamo, poi le affronteremo uno per uno questi aspetti. Intanto c'è un punto, secondo me, ancora più importante, e lo dico qui a conclusione, perché poi questa discussione ci piace continuare il 31 sotto Re Bibbia. Avete sentito gli spot? Il 31, come ogni anno da 20 anni a questa parte, ci si vede sotto il carcere di Re Bibbia, l'incrocio tra via Maiette e via Bartolo Longo, dove c'è la garitta del secondino che controlla. Ci vedremo lì con suona, banche, da mangiare, da bere, e parleremo anche di queste cose, di come rilanciare un movimento abolizionista del carcere. Ciascuno può essere arrivato alla critica al carcere da tanti percorsi, ognuno ci è arrivato al proprio percorso, tutti sono validi, tutti sono importanti, tutti sono accettati. Ed ognuno marcerà secondo il proprio andamento. Si tratta solo di tenere tutti quanti al centro del nostro percorso il tema di abolire. È giunta l'ora di abolire il carcere. Questo è il punto centrale. E io credo che, per quanto mi riguarda, un elemento più importante di tutti gli altri c'è, ed è questo. Quando noi diciamo bisogna cambiare questa società, non va bene, basata sullo sfruttamento, sull'oppressione, e per costruire un'altra società, da un po' di tempo non diciamo più quali sono le caratteristiche centrali intorno a cui costruire questa nuova società, non lo diciamo più. E per quello poi che ci lamenta a fare quando diciamo ma i giovani non c'è, è chiaro, se un giovane non vede una prospettiva in cui buttarsi per costruire un nuovo mondo, è chiaro che non viene, quindi c'è bisogno che venga, poi ci metterà la sua creatività, ma intanto c'è bisogno di vedere le linee generali di questo nuovo mondo. Questa nuova società da costruire, secondo noi, intanto parte, secondo me, dalla società senza galere, che non significa soltanto chiude penitenziari, ve lo dicevo prima, il carcere è connesso a repressione, codice penale, giustizia, magistratura, sistema della polizia, controllo urbano, proprietà privata, individualismo, e chi più ne ha più ne metta. Questo è il punto centrale. È giunta l'ora, secondo me, anzi pure in ritardo, riprendere le grandi elaborazioni dei grandi abolizionisti, quelli che alla fine della seconda guerra mondiale videro, perché alcuni c'erano stati dentro, che orrore che aveva prodotto il meglio della cultura europea, quindi la Germania, con i campi di sterminio, perché era il meglio, il paese più colto e più scolarizzato, la Germania, e aveva prodotto quella roba lì, e allora intanto hanno detto che cos'è il campo di sterminio, è una situazione concentrazionaria, è lo sviluppo estremo del sistema carcerario, non è un'altra cosa, è semplice. Quindi attenzione a maneggiare con cura il sistema carcerario, perché può produrre il campo di concentramento, e infatti ne ha prodotti e continua a produrre. Quindi scelsero la via dell'abolizionismo. Poi si è affievolito perché la società europea si è un po' rimbambita, ma si tratta di riprendere quel filo.